Le chiamiamo coincidenze per non dargli troppo peso. Molto spesso confondiamo l'oro col metallo fuso. Sfumature blu cobalto che colorano il tuo cielo. Nel silenzio della notte mi accarezza il tuo respiro. Chiudi piano la finestra mentre un merci sta passando. Io trascino un po' la voce ma non cedo alla stanchezza. Ho da dirti troppe cose, questa notte è già finita. Dalla tenda il sole taglia la tua fronte e le mie dita. Io non lo so che cosa sia. Al centro di tutti i pensieri galleggi come una ninfea. E sceglierò di andare via se dentro i tuoi occhi ci fosse il riflesso di un'ombra non mia. E che ti sento dentro gridare contro vento. Immagino il tuo odore, lo stesso della neve. L'impronta dei tuoi passi, la prova che tu esisti. Non ti posso obbligare, ma spero che tu resti. Vorrei mi fossi accanto, anche solo in silenzio. Sapessi disegnare, supererei il confine di tutte le parole che non riesco a dire. Ma non lo chiamo amore, l'amore può finire. Risalire i tuoi pensieri dalla foce alla sorgente. Le paure, i desideri sono un'ombra equidistante. Le distanze, dici spesso, sono nella nostra testa. Ma se ti avvicini a un passo, dentro un brivido mi resta. Io non lo so che cosa sia, ma dalla mia strada trascini le foglie e le spazi via. E che ti sento dentro gridare contro vento. L'impronta dei tuoi passi, la prova che tu esisti.